domenica scorsa, sì, perché anch'io vi parlo di domenica scorsa, è un caso. Mentre prima della trasmissione, della nostra trasmissione, non di domenica in, mentre mi aggiravo come al solito per la sede della radio, disturbando il lavoro dei redattori impegnati nella preparazione del notiziario e rendendomi in vario modo molesto, mi è capitato di notare un titolo interessante su uno dei terminali collegati con l'ANSA. Lo saprete già, ma accanto all'informazione relativa alle ultime mosse di Prodi, a Berlusconi e D'Alema, al corso del Marco, all'imminente festival di Sanremo, qualcuno ci comunicava che Dio non avrebbe mai distrutto il mondo. La notizia, ammetterete, era degna di un certo approfondimento, per cui ho approfittato della gentilezza del nostro Ferrigno per farmela scaricare e stampare seduta stante e mi sono ritrovato per le mani 16 righe di testo, 16, in cui si comunicava che il Papa, in visita alla parrocchia romana di Sant'Andrea a Avellino, aveva commentato la lettura biblica della giornata dedicata all'episodio del diluvio universale, Genesi 6:9, specificando che nel corso delle epoche storiche gli uomini hanno continuato a commettere peccati, forse persino maggiori di quelli descritti prima del diluvio. Tuttavia, dalle parole dell'alleanza stretta da Dio con Noè, si comprende che ormai nessun peccato potrà portare Dio ad annientare il mondo da lui creato. Dopodiché l'autore della notizia passava ad altro, occupandosi della distribuzione ai romani di 1 milione di copie del Vangelo di San Marco, che è senz'altro una cosa di non poco interesse, ma con la distruzione del mondo ha poco a che fare. E io vi confesserò che sono restato deluso. Mi aspettavo di più da una notizia del genere, che Dio avesse assicurato di non avere intenzione di annegare per la seconda volta al mondo, mi sembrava di saperlo già, come una lontana reminiscenza della frequentazione giovanile delle lezioni di catechismo. In effetti è scritto che più chiaro di così non si può nella Bibbia. Genesi 9:11, due punti aperte le virgolette, io fermo il mio patto con voi che ogni carne non sarà più distrutta per le acque del diluvio e che non sarà più diluvio per guastare la terra. Un messaggio, ne converrete, dal significato assolutamente esplicito e del tutto tranquillizzante, a meno che qualcuno voglia avanzare l'ipotesi di un dio burlone causidico che, impegnandosi a evitare per il futuro il diluvio propriamente detto, si riservi la possibilità di ricorrere a qualsiasi altro espediente distruttivo, che è un'interpretazione che nemmeno il più incallito fondamentalista, credo, oggi oserebbe far sua. Il Papa non aveva sfoggiato arditezze teologiche particolari, si era limitato a riferire una verità nota normalmente accettata dalla dottrina della sua Chiesa. Aveva fatto, in altre parole, il suo mestiere, cosa che in sé non dovrebbe meritare un interesse giornalistico particolare, anche perché in fondo affermazioni di questo genere sono difficilmente verificabili o falsificabili, se proprio volete essere popperiani ortodossi, e comunque sono di natura tale che ognuno può sempre azzardarsi a esprimerne senza sbagliare, nella serena consapevolezza che anche se fossero completamente sbagliati, nessuno sarebbe in grado di farlo rilevare. Una vera notizia la si avrebbe avuta se il pontefice avesse affermato che tutto sommato il rischio di un nuovo diluvio universale c'è, come raccomandando ai giusti di tenersi l'arca pronta nel cortile di casa. Ma i giornali italiani su cosa sia o non sia la notizia hanno le loro opinioni particolari. Niente da stupirsi, quindi, se il giorno dopo, lunedì 17 febbraio, quella non notizia compariva con un rilievo gigantesco su tutte le testate. Anzi, i due principali quotidiani nazionali facevano a gara chi le dava più spazio. Il Corriere gli dedicava un rispettabile riquadrato a 3 colonne in una pagina interna con interviste a teologi ed altri specialisti, e Repubblica si sprecava fino a uno strillo in prima pagina, 4 colonne taglio centrale, mai più un altro diluvio, bello grosso, e un intero servizio, anzi un'intera pagina di servizi nell'interno. Quest'ultima, oltre a citare Sant'Ireneo, Nostradamus, il terzo mistero di Fatima, spaziava nel campo della mitologia comparata, ricordando i diluvi presenti nella tradizione mesopotamica, indiana e persino amazzonica, perché anche certi indiani Mura raccontano che una volta i loro antenati furono sommersi dalle acque, tranne uno abbastanza furbo da arrampicarsi su una palma. Ora, tanta messa di informazioni suscita altrettanti problemi, insomma. Un teologo, Potrebbe chiedersi come fa un essere onnipotente per definizione a sentirsi legato a qualcosa, sia pure un impegno preso da lui stesso. Uno scettico come me, sarebbe tentato di far notare che non c'è niente di più ovvio che racconti di inondazioni disastrose alvignino nella memoria di popoli situati sulle sponde di fiumi grandi e indisciplinati, tipo l'Eufrate, il Gange, il Rio dell'Amazzoni, no? E magari potrebbe spingersi persino ad affermare che la presenza nella Bibbia di un racconto evidentemente derivato da esperienze altrui è uno dei tanti elementi che rafforzano qualche dubbio sulla natura ispirata e assoluta di quel testo. Uno studioso attento ai problemi di semantica diacronica potrebbe chiedersi che cosa nelle affermazioni bibliche riprese dal buon Wojtyła si intenda per mondo, visto che gli autori della Bibbia e dei testi mesopotamici, indiani e amazzonici, immagino, identificavano con il mondo la regione in cui abitavano loro e pensavano che fuori non ci fosse un granché, mentre noi abbiamo qualche opinione leggermente diversa e io non so l'ebraico, ma posso assicurarvi che cosmos nel testo greco e mundus in quello latino vogliono dire universo. E il buon giornalista dovrebbe spiegare ai suoi lettori perché mai il Papa, che è il Papa non l'ultimo venuto, abbia sentito il bisogno di ripetere solennemente una banalità teologica così banale che qualsiasi curato di campagna attento all'immagine se ne terrebbe la larga. Domanda che, in tutti gli articoli che ho scorso io, nessuno si sognava di fare. E già, perché come si fa? Non si può dire che anche il Papa poveretto fa quel che può, che da un lato non può lasciarsi sfuggire un'occasione per sottolineare il ruolo del divino nella storia e ricordare quel patto tra Dio e uomo su cui si fonda il sistema teorico della sua Chiesa, e dall'altro proprio non può ricorrere a degli argomenti ideologicamente controproducenti, meno fortunato dei suoi predecessori, che invece se ne servivano con larghezza. Tra gli argomenti particolarmente ostici alla cultura di oggi, temo proprio rientri la minaccia di punizioni, vuoi collettive, vuoi individuali. La stessa parola inferno, non so se l'avete notato, sulle labbra pontificie non fiorisce così spesso. È lo stesso problema che avevamo rilevato in occasione della riabilitazione di Galileo e dei flirt col darwinismo, no? La Chiesa non controlla più al 100% il quadro dei valori delle comunicazioni di massa e per salvare quello che davvero le interessa deve scendere a qualche compromesso sul resto. E così getta le ortiche, chissà con quanto dispiacere, un classico dell'argomentazione profitico-ecclesiastica, la minaccia della catastrofe, del castigo solenne, del dies ire, dies illa, che per ovvie analogie col diluvio il mondo a questo punto non ha più ragione da aspettarsi. Per chi deve continuare a esortare a tenerci alla larga dal peccato, con rispetto parlando, deve essere una fatica da bestia. Poi certo, i teologi possono cercare di recuperare, di spiegare che il mondo non sarà distrutto, no, ma profondamente trasformato sì, che più o meno è la stessa cosa. Ma chi è che ha paura della trasformazione? Forse tutto sommato la notizia di quel discorsetto del Papa alla parrocchia di Sant'Andrea Avellino è davvero importante. Restiamo ancora un momento in argomento biblico, se non vi dispiace. Forse avete notato che la breve citazione della Genesi di pochi minuti fa suonava vagamente diversa da quelle che si ascoltano di solito, in un certo senso era più solenne, più inconsueta nella forma. In effetti non ho resistito alla tentazione di citarvi la Bibbia nella traduzione italiana del 1607 di Giovanni Diodati, che è un classico delle nostre lettere e uno dei più notevoli esempi di prosa religiosa in lingua italiana. Notevole o no, comunque mi è venuto in mente che è un classico dimenticato, come piuttosto dimenticato il suo autore. Eppure Giovanni Diodati Lucchese è nato nel 1576, se vi interessa, è morto nel 1649, ai suoi tempi è stato un personaggio piuttosto eminente. Ebraista e biblista insigne, trasferitosi per motivi religiosi a Ginevra, fu il primo a tradurre l'Antico e il Nuovo Testamento in italiano e poi anche in francese, partendo dai testi originali. E divenne uno dei pezzi grossi e dei più ragguardevoli intellettuali della sua nuova patria. rappresentò Ginevra al Sinodo di Dordrecht nel 1618, fu in stretti rapporti con Paolo Sarpi sul tema della riforma religiosa a Venezia. I meriti religiosi a parte, la sua traduzione della Bibbia, oltre che un capolavoro di filologia, rappresentano dei primi esempi di prosa italiana moderna, libera finalmente dai modelli trecenteschi, finalmente vicina, pur nell'ovvia solennità del suo stile, alle cadenze della lingua parlata. Insomma, un personaggio che si potrebbe benissimo collocare accanto ai grandi del suo secolo, diciamo alla pari del Machiavelli, un livello così. Potrebbe. Perché non vi sarà sfuggito che la figura di Giovanni Diodati oggi, almeno in Italia, è assolutamente sconosciuta. Il suo nome non figura in nessuna storia letteraria tra le molte che ho consultato, è assolutamente ignoto al grande dizionario Bompiani degli autori delle opere, non compare nelle garzantine, neanche quella sulla religione, ci si può benissimo laureare in lettere senza averlo mai sentito nominare, è capitato anche a me una trentina d'anni fa e non credo che oggi la situazione sia diversissima. L'unica edizione accessibile della sua opera risulta stampata in Inghilterra, a cura della Società Biblica Britannica e Forestiera, e non è facile trovarla altrove che nel circuito delle organizzazioni culturali protestanti. Già, perché Diodati naturalmente aveva aderito alla Riforma, e del cristianesimo riformato è stato uno dei più eminenti teologici, si era messo contro la Chiesa cattolica e quindi è stato radicalmente cancellato dalla cultura italiana. È successo 4 secoli fa e la cancellazione regge benissimo anche oggi. E non crediate che siano cose vecchie, è vero che oggi la Chiesa, come dicevamo prima, non può più permettersi di rivendicare l'esclusività dei valori culturali, ma una certa quale influenza evidentemente continua a esercitarla. Nel proprio specifico campo, poi, il monopolio continua a esercitarlo con tranquillità. E in questo deve aver fatto scuola. Non faccio nomi, ma provatevi oggi in Italia a sostenere o sviluppare una qualsiasi tesi sgradita a una delle molte chiese che si spartiscono il potere culturale e vedrete anche voi se non sia il caso di pensare a una lapide trasferta a Ginevra o dove per essa. D'altronde, in un paese che ha il ministro della cultura che ha, che cosa volete che si possa fare? Come cosa c'entra il ministro della cultura dei beni culturali e vicepresidente del consiglio? Cosa c'entra con Giovanni Diodati? Niente, non c'entra assolutamente niente, appunto.